Gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti cari radioascoltatori. Ebbene, oggi inizierò leggendo alcune righe e poi capirete perché, introducendo ovviamente il tema di questa trasmissione. Ci siamo rovinati perché abbiamo banalizzato i nostri vini con i punteggi. Quella dei punteggi è una trappola dalla quale dobbiamo uscire. Dobbiamo eliminare le tecniche di Parker. Questo è il futuro. Il punteggio ha gerarchie, ha determinato la banalizzazione del gusto. Se si proseguono questi schemi ridicoli, il nostro lavoro di ricerca genetica dei territori non se ne attiva a niente, non servirà a niente. Queste sono parole del professor Attilio Scienza che abbiamo qui con noi, e quindi su questo vorrei cominciare questa trasmissione e chiedere al professor Scienza, visto che il suo pensiero è ben chiaro, quale potrebbero essere allora, professore, il metodo della critica e quale tecnica usare per poter criticare e quindi giudicare dei vini. Pronto? Sì, pronto. Davide, buongiorno. Buongiorno. Ma io penso che bisogna partire, penso, da una considerazione di fondo, che le guide non appartengono alla nostra cultura europea. Sono arrivate, direi, qualche decennio fa, ma certamente non esistevano da noi questi modi di classificare e di valutare i vini. È tipico della cultura anglosassone, è proprio nella terminologia commerciale di questi paesi tendere alla semplificazione. Se tu pensi che in India ci sono 500 tipi di tè e gli inglesi ne hanno commercializzato 4-5 o così come i ferri, vuol dire che nella loro cultura le differenze vanno il più possibile normalizzate, standardizzate, altrimenti diventa molto difficile per loro attuare una strategia, diciamo, commerciale. Allora io penso che quello dei punteggi sia stato certamente un fenomeno positivo all'inizio perché ha aiutato il consumatore a delle scelte ben precise, semplici, in cui abituare il suo gusto, rinnovare il suo gusto dopo, direi, tanti anni in cui non c'era l'educazione al vino, e naturalmente ha abituato anche le aziende a standardizzarsi in un certo senso in un confronto internazionale. Questo è stato positivo, però attualmente mi sembra più una specie di mercato delle indulgenze, una specie di così compensazione, perché il punteggio dà al produttore questa sua, direi, identità un po' narcisista, si specchia in questo punteggio e quindi dice come sono bravo, abbiamo fatto delle cose giuste, e dall'altra c'è questa riduzione del ruolo del consumatore nella scelta. Il consumatore viene guidato, tenuto per mano su dei modelli sensoriali estremamente precisi che Parker ha codificato, ma solo per i vitigni internazionali, sono per i Cabernet, sono per i Pinot, sono per i Chardonnay, sono per tutte queste varietà che hanno in sostanza in tutto il mondo un profilo sensoriale ben preciso. Ecco, se noi cadiamo in questa trappola, io dico sempre, anche in Italia, tutto il lavoro nella ricerca dei vitigni antichi, nella ricerca di nuovi territori, viene banalizzato, non riusciamo noi a farli rientrare in questo canone di valutazione, perché è talmente tanta la variabilità, è talmente ricca la scelta che è impossibile creare delle categorie di riferimento. Allora tu dici qual è l'alternativa? Beh, l'alternativa io penso che sia sempre nell'educazione, e in una, direi, educazione in una cultura antropologica al rapporto tra chi produce e chi consuma. Antropologica vuol dire umanesimo, vuol dire partire sempre dall'uomo, partire dalla voglia di far capire all'uomo, attraverso così lo scritti, gli scritti, le informazioni, quello che c'è dietro a un vino, ma senza dargli degli schemi rigidi, degli schemi, diciamo così, predefiniti, perché questo alla fine ci porta ad avere 10 vini, 15 vini in tutto il mondo, e naturalmente vincerà chi avrà più soldi per la comunicazione, chi avrà più possibilità di trovare i grandi enologi, chi ha tecnologie molto avanzate, ma i piccoli a questo punto scompariranno, non avremo più direi questa razza di viticoltori che devono fare molta fatica per avvicinarsi al mercato e che trovano in queste guide proprio una barriera insuperabile, insormontabile. Bene, grazie professore, so che lei deve andare perché è un convegno e noi proseguiremo con altri ovviamente ospiti che sicuramente molti non saranno del suo parere. Mi spiace che appunto lei non potrà continuare ad assistere così a partecipare alla trasmissione. Grazie professor Scienza, numero verde 800 24 00 24. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, appunto, abbiamo con noi Daniele Cernili che è stato il fondatore della prima guida, diciamo, ai vini in Italia, la guida ai vini d'Italia, il Gambero Rosso, e quindi credo che dopo aver sentito il professor Scienza sia giusto ascoltare appunto chi in Italia ha inventato il discorso delle guide ed è stato il primo. Buongiorno Daniele. Buongiorno Davide. Allora, premessa, io sono un amico del professor Scienza e qualche volta mi piace litigare con lui. Mi dispiace che non ci sia più perché adesso gliene dico quattro. La primo, allora, intanto voglio precisare, io non sono stato l'inventore delle guide perché lo è stato Gino Veronelli con i cataloghi Bolaffi fino al 1968, dove dava punteggi in stellina, quindi il Gambero Rosso li dava in bicchieri e via così. Sì. Allora io voglio dire soltanto questo: se si contestano i punteggi dati ai vini, allora voglio che si contestino anche i punteggi dati a scuola agli alunni, voglio che si contestino le pagelle dei giocatori di calcio che escono tutti i lunedì su tutti i quotidiani più importanti in tutto il mondo, voglio che si contestino i pallini che la critica cinematografica dà ai film quando appunto vuole esprimere un parere rispetto a queste cose qui. Quindi il discorso non ha a che vedere con i vini. Io capisco che Scienza è un accademico, capisce di didattica, ma non capisce niente di comunicazione. Questo glielo voglio dire chiaro, proprio perché siamo amici. È una banalità quella che ha detto. I voti vengono dati da sempre, la riforma Gentile prevedeva i voti fino al 1930, credo fosse. Prendere 7 a scuola si capisce benissimo che cosa significa, prendere un premio basato oltretutto su una degustazione, quindi su parametri che sono piuttosto condivisi da parte di tutti quanti, credo che sia una cosa legittima, è una semplificazione sicuramente, ma quante semplificazioni facciamo per capire meglio e per avere una idea sintetica rispetto a quello di cui stiamo parlando? Questo credo che sia la cosa da dire. Il resto, io vorrei sapere se Scienza ma è un esperto di docimologia oppure se lui si astiene dal dare punteggi e voti ai suoi studenti universitari quando vanno a fare un esame, perché è esattamente la stessa cosa dal punto di vista teorico, teoretico vorrei dire anche. Bene, rimani con noi, cominciamo a sentire qualche radioascoltatore. Franco dalla provincia di Novara, buongiorno Franco. Buongiorno a voi. Prego. Nulla, io volevo intervenire in merito a quello che ha detto il professore, che ahimè non ho sentito il nome, mi scuso. Professor Scienza? Professor Scienza, ecco, le spiego, io sono arrivato un giorno fa dal Cibo di Parma, tutti magari lo conoscono, a questo punto dico, il piccolo produttore, proprio per, siccome il mio suocero è un produttore di vino, il piccolo produttore non potrà mai avere spazio e margine, glielo dico perché io mi sono affiancato all'azienda produttrice di Gorgonzola per poter fare il mio assaggio del vino, perché ahimè non ho i numeri e non ho neanche la possibilità di poter fare diciamo un'ampia gamma, per il semplice fatto che territorialmente non ho la collina o le colline per poter produrre dei vini. Chiaro che se avessi le colline e quindi a un giudice dell'AISM diamo o lo invitiamo a tantissimi convegni previo denaro, chiaramente questa persona non potrà nient'altro che parlare di me, no? Quindi capisce che tutto quello che si dice riguardante un grosso vino viene portato a essere grosso vino perché c'è dietro un merchandising enorme. Beh sì, ora non banalizziamo così, cioè, molti vini sono anche frutto di scoperte dei critici che vanno in giro per l'Italia o fanno innumerevoli discussioni, quindi non credo che si possa banalizzare su questo. Il fulcro era se era giusto o meno dare vino. Lei dice giustamente non tutti i vini arrivano a tutti i critici, questo questo può essere un problema, però sicuramente non è che bisogna portarlo, avere grossi mezzi per portarlo. Molte volte ci sono anche delle scoperte fatte anche casualmente. Grazie a Franco della provincia di Novara, ricordo il numero verde 800 24 00 24. Ora abbiamo con noi Giancarlo Gariglio, che è curatore di Slowine, la guida di appunto Slowine, che è uscita 2 anni fa, mi pare, senza voti, e volevo chiedere a lui il perché, la motivazione di questo. Buongiorno Giancarlo. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto la nostra non è una crociata contro i punteggi, nel senso che li avevamo dati insieme a Gambero Rosso per tanti anni, quindi la nostra non è assolutamente una crociata contro i punteggi, piuttosto è una naturale evoluzione di quello che è stato il pensiero di Slow Food in questi 20 anni. Per noi diciamo che la qualità non è unidimensionale, nel senso non comprende un solo parametro che è il buono. Questo negli ultimi 10 anni è una cosa che abbiamo sviluppato soprattutto con Carlo Pietrini negli ultimi 10 anni. La qualità secondo noi deve comprendere almeno altri 2 parametri che sono fondamentali per dire che un prodotto è veramente di alta qualità, che oltre al buono, naturalmente importantissimo, sono il pulito e il giusto. Cerco di spiegarmi meglio. Il pulito è in un momento dove l'ambiente sicuramente non vive grande fortuna, ci sono grandi problemi dal punto di vista ambientale, sicuramente l'agricoltura è complice di questa di gran parte dell'inquinamento del pianeta, quindi per definire un prodotto di alta qualità dal punto di vista gastronomico, secondo noi bisogna prendere anche in considerazione questo fattore. E poi il giusto, che può essere sia il rapporto qualità-prezzo, sia la giusta remunerazione da parte del consumatore nei confronti del produttore. E quindi nel giudicare un vino, noi abbiamo deciso di eliminare il punteggio proprio perché un punteggio difficilmente riesce a dirci questo prodotto è buono, pulito, giusto. Piuttosto ci siamo concentrati invece su innanzitutto sulla visita in cantina, cioè visitare tutte le cantine che abbiamo in guida, sono più di quasi 2000, e in queste visite appunto prende in considerazione quelli che sono i metodi di lavorazione e tutto quanto concerne appunto i parametri del pulito e del giusto. Poi naturalmente le degustazioni continuiamo a farle, le facciamo in gruppo e in quel caso lì naturalmente noi utilizziamo tra di noi un disco per definire il buono, naturalmente lo definiamo attraverso un parametro aritmetico, questo senza dubbio. Quindi diciamo che è stata una conseguenza diretta del nostro lavoro in questi anni il fatto di eliminare i punteggi a nostra guida, anche perché dire che un vino vale 95, poi 95, 96, 97, 92, 88, non riesce a definire in pieno quello che a noi interessa dire, interessa soprattutto raccontare. Grazie Giancarlo Gariglio e di Slowine. Sentiamo Massimo da Roma, un altro radioascoltatore. Buongiorno Massimo. Buongiorno, volevo intervenire perché è una cosa di molti anni fa, ormai sono passati vari anni, quando l'Italia pensò di far definire la parola vino a livello europeo e quindi doveva essere identificato come prodotto esclusivo della fermentazione dell'uva. La Francia si oppose tassativamente a questa definizione, perché se la Francia non aggiungesse tonnellate di zucchero non potrebbe raggiungere quella gradazione che poi diventa... Massimo, non stiamo discutendo di questo oggi, mi spiace, sì, abbiamo capito benissimo dove lei vuole arrivare, però non stiamo discutendo di questo. La ringrazio e io voglio leggere un SMS e poi farlo commentare da Daniele Cernilli. Le guide ricevono i campioni, ma non è detto che i campioni inviati siano dell'azienda. Potrei prendere un vino che ha vinto l'anno prima, lo metto nella mia bottiglia e lo invio. È un giudizio sensato? Marco da Cortona. Daniele, vuoi commentare questo? Si è appoggiano ai consorzi, i consorzi dei produttori, ed è esattamente il modo per arrivare ad avere i campioni, ed è esattamente quello che hanno le commissioni di assaggio per la DOCG, cioè è lo stesso sistema. Quindi se questo vale per le guide, vale anche per l'assegnazione delle denominazioni di origine, e questo credo che sia abbastanza evidente. Poi se c'è qualcuno che bara, in genere un assaggiatore esperto se ne accorge. Non è... volevo rispondere a Gariglio. Sì. È vero che loro non danno punteggi numerici, però danno il vino slow, danno la chiocciolina, cioè delle sottolineature e quindi dei punteggi non numerici che sottolineano in ogni caso la qualità dei vari vini. Quindi non è vero che la guida slow food non dia i punteggi, non dà i punteggi numerici, ma è un altro discorso. Il punteggio in fin dei conti è la sintesi di qualche cosa, può essere fatto sia a livello numerico che a livello, certo, di giudizio. Se io dico ottimo o buono, come si fa alle medie, vuol dire 9 o 8, come sanno tutti quanti i ragazzini. Grazie, grazie a Daniele Cernilli. Sentiamo Marco da Sondrio, un radioascoltatore. Sì, affezionato, ciao Davide. Ciao. Volevo intervenire per dire che sono d'accordo con col professor Scienza, però condivido anche quello che è stato detto sulle guide, perché comunque servono e sono uno strumento importante per conoscere i vini, e devo dire dalla mia esperienza che ho conosciuto comunque giornalisti che vanno a scoprire, critici eccetera, e quindi alla fine sono degli strumenti utili. Però secondo me la provocazione di Scienza è importante per ricordarci che il vino va raccontato più che altro, non va etichettato con un numero o con una chiocciolina o con una forchetta o con una stelletta, va raccontato, e quindi noi italiani, che siamo bravi a raccontare delle belle storie, dobbiamo sempre di più raccontare il vino. Che ben vengano le guide comunque, perché sono comunque uno strumento, però ci sta l'intervento di Scienza. Grazie, grazie a Marco da Sondrio. Bene, abbiamo con noi Eleonora Guerini, che è la curatrice della guida del Gambero Rosso. Buongiorno Eleonora. Sì, buongiorno a tutti. Volevo chiederti questo: secondo te ci può essere un'altra metodologia senza dare voti per giudicare i vini? Ma allora diciamo che come diceva Cernilli poco fa, il punteggio è una sintesi che permette a tutti in un modo o nell'altro di capirsi. Certo, una sintesi che può essere arricchita da dei commenti, da delle descrizioni, da qualcosa per cui che permette al lettore, al consumatore, di capire meglio che cosa significhi quel punteggio. Quindi io non capisco tanto la demonizzazione in assoluto del punteggio, visto che è semplicemente un metodo, un mezzo che permette alle persone di capire in maniera semplice quello che potrebbe essere un concetto complesso per chi ad esempio non è proprio un appassionato di vino, non ha quella conoscenza che i critici danno un po' per scontato, ma non è sempre così. Voglio dire, un punteggio, che sia la chiocciola, che sia il bicchiere, che sia un numero, permette a tutti di capire la qualità di quel vino. Poi sta al consumatore fare un passo in più, se ha voglia, se è curioso, se ha passione, nel capire quel punteggio cosa significa nello specifico, le sfumature. Questo voglio dire, non capisco francamente questa polemica che è nata negli ultimi anni sul punteggio in quanto tale. D'altronde, lo diceva prima anche Gariglio, loro stessi poi quando degustano utilizzano il punteggio per capirsi, perché è difficile poi parlare lo stesso linguaggio, non so, utilizzare una poesia piuttosto che una canzone per capire come quel vino. Si utilizza il punteggio perché è più semplice, non è esaustivo, uno può metterci di più, ma non lo demonizzerei, voglio dire, mi sembra un ottimo mezzo. E oltretutto volevo aggiungere una cosa, il discorso che ha fatto il professor Scienza prima sul fatto che il punteggio è di matrice anglosassone, permette di giudicare solo certi vitigni o certi vini, francamente non lo capisco. Voglio dire, noi abbiamo giudicato la guida del Gambero insieme anche agli amici di Slow Food per più di 20 anni, cioè vini italiani che venivano da Sangiovese, Naverello Mascalese, da Nebbiolo, cioè dai vitigni nostri. Non è che non capisco bene questa connessione tra il vitigno internazionale o il vino internazionale e il punteggio. Ma mi sembrava che lui volesse dire, perché l'ho anche scritto, che in questa maniera, cioè con i punteggi, si creano delle categorie. Lui insiste su questo fenomeno qui. Si creano le categorie nei produttori che seguono un'omologazione, ma che non è data dal punteggio l'omologazione, è data da il modo di pensare dei produttori. Ci sono produttori che negli anni 90 se ne sono altamente infischiati della barrique, dei vini ciccioni, di quel tipo di vino mangia e bevi, hanno continuato per la loro strada. È una scelta che il produttore fa, cioè determinare la responsabilità delle guide sulla scelta dei produttori. Io trovo che sia veramente quella una gran semplificazione. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di guide, a parlare di vino, a parlare di punteggi. Io voglio subito dire e precisare una cosa a chi manda SMS, e sono tanti questi SMS che parlano di punteggi, diciamo così, prezzolati o d'altro. Bisogna dimostrarle queste cose, non si possono scrivere degli SMS così accusando guide o d'altro, magari per sentito dire e non avendo le prove. Quindi prego, astenetevi da questi tipi di messaggio, perché secondo me veramente non hanno alcun senso. Bene, continuiamo e sentiamo radioascoltatore Matteo da Verona. Buongiorno Matteo. Sì, buongiorno. Probabilmente prego. Il mio intervento si collega a quello che lei ha appena detto, nel senso che io volevo appunto mettere che sono d'accordissimo sul fatto che esistano le guide, perché servono ad orientare nel mare magnum del vino piuttosto che del cibo o di altro. Sono d'accordo sia che vengano redatte con punteggio piuttosto che con un giudizio globale oppure una bella chiacchierata. Quello che secondo me andrebbe fatto da parte delle guide, soprattutto delle più autorevoli, sarebbe quello di dare maggiore garanzia non tanto di competenza quanto piuttosto di imparzialità, perché i dubbi che emergono nel pubblico e nel consumatore ci sono, e sono tanti. Lei ha ragione nel dire che ci vogliono le prove, per carità, però non siamo in un tribunale e quindi ritengo forse un po' troppo esagerato dover fornire delle prove concrete su questa cosa. È quello che molta gente sospetta in certi casi, perché al di là della bontà o della qualità di un vino, i soliti nomi si leggono sempre e fatalità sono sempre quelli relativi a grandi gruppi. Magari, come lei diceva prima, la scoperta da parte del critico c'è, però ecco, è un passaggio molto veloce destinato poi a spegnersi se il produttore scoperto non coltiva un'ottima relazione con il critico. Senta Matteo, lei è del mondo del vino, appartiene al mondo del vino? Io sì, in famiglia sì. E quindi, cioè, lei è un lettore delle guide, cioè controlla le guide, quindi vede le guide, insomma? Io mi capita, io faccio tutt'altro. Ah, bene, bene. Okay. Ho tutti i parenti che si occupano bene di vino. Grazie, grazie a Matteo da Verona. Bene, abbiamo con noi Pierluigi Gorgoni, che è responsabile della degustazione della rivista Spirito di Vino e docente di enologia. Io so che tra l'altro Gorgoni in passato diciamo era redattore di guide che davano punteggi. Voglio sapere lui cosa ne pensa, visto dai ancora punteggi come Spirito di Vino, Pierluigi? Ah, ciao Davide. No, sono attualmente uno dei redattori della guida dei vini dell'Espresso, ecco. Quindi sì, ho la sensazione di dare tantissimi punteggi e mi sembra un metodo assolutamente sintetico ed efficace per comunicare. Quindi comunicare attraverso uno strumento come quello della guida o anche attraverso pubblicazioni, insomma, sì, mi sembra. Io ti voglio leggere nel sito Il Gastronauta, dove tra l'altro collabora la persona che sentiremo poi, che è Federico Graziani. Voglio leggere un intervento di un personaggio che fa parte del mondo della gastronomia, che è Alberto Del Buono di Pienza. Dice: i voti sono una semplificazione per poveri di spirito, cui sono interessati solo coloro che vogliono fare bella figura nella conversazione con altri pseudo acculturati senza nulla avere studiato e appreso sul vino, che è soprattutto espressione del territorio sul quale le uve vengono coltivate. Sarebbe bello che tutto ciò finisse, ma è improbabile in un'epoca in cui tutto è apparenza, più apparenza che sostanza. Tu cosa ne pensi di questo intervento? Che l'espressione in sé è affascinante, no? Cioè, è carica di suggestioni, però bisogna anche dare un altro credito ai cosiddetti critici. nel senso che poi quel gruppo di persone che si muove dentro le guide e che lavora per mesi assaggiando migliaia di vini e assaggiandoli in condizioni di bottiglie bendate, quindi coperte, senza avere nessun riferimento diretto di ciò che sta assaggiando, sono persone preparate a dare anche dei giudizi sintetici, come può essere quello di una valutazione numerica. Sono preparate perché forse è un fatto culturale, di consapevolezza. Io credo che nella lettura del vino, di qualsiasi vino, per quanto mi riguarda, c'è sempre il tentativo di interpretare quanto quel vino riesca ad esprimere il suo territorio. E in questo è il punteggio che ne scaturisce, non può mai prescindere da questo. Allora diventa un fatto culturale, diventa un fatto di conoscenza. Prima Daniele Cernilli secondo me ha detto tante cose corrette, ad esempio la bottiglia importante premiata l'anno prima, come ha detto credo un ascoltatore, sì, certo. Inviata poi successivamente, cioè questa è facilmente smascherabile come operazione, perché chi frequenta i territori, chi conosce come lavora una determinata azienda, sa bene che quell'azienda difficilmente potrà produrre quel tipo di vino. Quindi si assaggia, si riassaggia, stiamo parlando di migliaia di assaggi durante l'anno, non stiamo parlando, e tutti fatti con grande oculatezza. Beh, e sentiamo Vincenzo da Latina, un radioascoltatore. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a lei. Senta, volevo soltanto fare una piccola nota, perché Wine Spector nel 2011... Wine Spector, sì. Diede 98 non uscirà di un giovane produttore australiano. Sì. Io sono favorevole ai punteggi di vino, perché giustamente purtroppo in una grande... marea di prodotti, di cloni differenti, di porti innesto, il vino per essere un grande vino deve avere anche un grande punteggio. Tutto lì. Ma scusi, ma perché lei si meraviglia che sia stato dato un punteggio così alto a un vino australiano? No, non mi meraviglio, sicuramente la commissione, sicuramente i vari wine tasting hanno deciso, adesso non so se a livello... Beh, ma guarda che in Australia c'è una viticoltura di grandissimo livello, non è che sono paese terzo mondo del vino, quindi Vincenzo. Grazie a Vincenzo da Latina. Abbiamo con noi, appunto, dicevo, Federico Graziani, che è sommelier, ora fa anche altre cose, però è anche si occupa anche di una rivista, ha fatto diversi libri. E lui come sommelier, io voglio chiedere, Federico, ma tu come sommelier, diciamo quando esercitavi tutti i giorni da sommelier, tenevi in grande considerazione le votazioni delle guide? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. No, sinceramente io ho sempre avuto sono voluto andare un pochino più in profondità rispetto a quelli che erano dei giudizi abbastanza semplificativi, che possono comunque risultare, credo, utile per un appassionato che si avvicina a questo mondo ma che non lo conosce poi così bene. Credo che un conoscitore di vino lo possa utilizzare come uno strumento un pochino semplificativo, ma che un vero appassionato dovrebbe andare un pochino oltre, insomma. Quindi tu dici non bisogna accontentarsi, certo, ma può essere, con questo invece volevo dire, può essere così, come posso dire, un primo approccio anche per scoprire delle nuove cose? Io preferisco andare a girare, andare a trovare queste persone, andare a scoprirmele, insomma. Tante volte risultano utili, ma credo che ancora di più il passaparola possa aiutare questa operazione. Credo che un punteggio, un valore numerico dato ad una bottiglia possa essere semplificativa per una persona che non ha una conoscenza di vino, ma che nell'appassionarsi ad una materia così vasta e così importante come quella appunto enologica, sia poi fondamentale andare a riscoprire il proprio gusto e sul proprio gusto andare a ricercare quelli che sono poi le caratteristiche che noi apprezziamo quotidianamente, che possono essere diverse da quelle di chi giudica generalmente nelle guide. Questo io reputo che sia il punto, che molto spesso il giudizio di una persona viene poi trasportato e tende a diventare il giudizio di tutti. Ecco, questa è la critica che io faccio al mondo dei giudizi numerici sul vino. Ma ci può essere un nuovo modo di fare una scheda di un vino e quindi portarla al pubblico che non sia il punteggio? A me, a Marco Pozzali su Pietre Colorate piace proprio raccontare delle storie. È chiaro che è un passaggio culturale un po' più impegnativo, nel senso che poi anche a livello temporale leggere un voto e andare a leggere invece una storia di una persona, di un vignaiolo, di un'azienda che produce vino, impiega un tempo superiore. Dopo è tutto relativo a quello che noi vogliamo poi veramente dalla bottiglia di vino. A Pier Luigi Gorgoni, in 30 secondi le chiedo, ci può essere un nuovo modo di giudicare un vino che non sia un punteggio? Ma io, tra l'altro, saluto Federico. Io penso che possano convivere, no, ambedue i modi di raccontare. Un racconto più sintetico è quello che necessariamente deve produrre una guida. Un altro tipo di possibilità è quella offerta dal racconto del vignaiolo, cosa che effettivamente io sono un lettore appassionato di Pietre Colorate e penso che loro facciano un lavoro meraviglioso, però è un altro modo di comunicare. Certo. È bello che ci sia l'uno e l'altro. Anch'io immagino la guida come un qualcosa che dia l'indirizzo ad un lettore per andare a trovare un produttore prima ancora che passare dall'enoteca a comprare la bottiglia col punteggio più alto. Bisogna saper leggere anche nei punteggi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo sul finale a parlare ovviamente di punteggi, di guide e di vino. Sentiamo Giovanni da Piacenza, un radioascoltatore. Buongiorno Giovanni, mi raccomando sintetico. Buongiorno, velocissimo. Io mi è capitato di fare delle guide per un produttore. Questo produttore aveva due linee, una anche per l'estero. Quella dell'estero è stata premiata al 100% sulla guida dell'espresso, quella dell'altra cantina che era lo stesso è stato premiato. Secondo lei è importante molto l'etichetta, guardano molto il produttore, la grande marca, difficilmente viene punita? Beh, guardi, questa è una domanda che posso rigirare al campione del mondo dei sommelier Luca Gardini, che è con noi. Luca, ma è vero che i grandi nomi vengono favoriti dalle guide secondo te? Pronto? Luca. Buongiorno a tutti. Sì, pronto. Sì, hai sentito la domanda? Sì, ho sentito la domanda. Certo, buongiorno a tutti. Ma non è che vengono favoriti, diciamo, mi sembra un po' eccessivo dire così, ovvio, per i grandi produttori magari non è che sia un occhio di riguardo, magari si può avere un'attenzione in più anche nelle annate magari un po' più piccole, però non è che sia un occhio di riguardo. Io penso che le guide fanno bene, i punteggi fanno bene perché fanno parlare, fanno classifica e fanno discutere, anche se oggi in Italia manchiamo un po' di credibilità. Senti Luca, volevo chiederti questo sulla tua, diciamo, la tua opera magna, omnia, quella che hai fatto sull'enciclopedia del vino. Tu hai fatto una graduatoria di 100 vini, non hai dato punteggi, però ovviamente è una graduatoria che esprime dei giudizi. Come avete dato questi giudizi? Perché avete messo primo, diciamo, questo porto e non altri? Cioè c'era un discorso aritmetico che avete fatto durante le degustazioni? Qual è stata, diciamo, la sintesi per arrivare a questa votazione? Diciamo, questa è stata la prima edizione che poi verrà fatta ogni anno, quindi come prima edizione tutti gli esperti dello staff che c'erano abbiamo messo una selezione di 100 vini che abbiamo assaggiato migliori delle ultime 3 annate in commercio, ci siamo fatti mandare i campioni, li abbiamo assaggiati 2 volte, abbiamo stilato un punteggio interno in centesimi nostro, la classifica, poi nella classifica abbiamo messo i punteggi, abbiamo dovuto fare dal primo al 100, già la classifica fa capire, no, come è andata poi giustamente la degustazione, però è stato un punteggio in centesimi. Ah, quindi in centesimi, avete usato i punteggi. Bene, abbiamo con noi Cristiana Lauro, che vive il mondo del vino in vari modi, blogger, responsabile di comunicazione per aziende, quindi voglio chiedere a lei, ma secondo te, cioè il discorso dei punteggi è corretto oppure è da distruggere, come dice il professor Scienza? Allora, buongiorno a tutti. Dunque, ho ascoltato con attenzione quello che dice il professor Scienza, non sono d'accordo per niente, onestamente, perché dire che i produttori piccoli scompariranno per via dei punteggi di Parker mi sembra eccessivo. Ecco, io non amo dare punteggi, ma perché se scrivo di un vino su un blog sono sola ad esprimere una mia preferenza e quindi non amo dare il punteggio perché credo il punteggio debba essere spalmato su una commissione d'assaggio e quindi debba essere il risultato della media dei voti di una commissione degustazione ed assaggio come avviene nelle guide. Poi nelle guide adesso senza fare nomi, ma se la guida del Baguro assegna le tre paperelle, utilizzo una simbologia a caso. Beh, non male, bellissima questa espressione. Puntuata da una guida di vasche da bagno, secondo me, ecco, in quel caso la valutazione non è chiara, cioè sono favorevole ai voti, ma ai voti che siano chiari e rigorosi, quindi in centesimi oppure in ventesimi come suggerisce Jensis Robinson, però devono essere voti chiari per tutti, universalmente riconosciuti, perché il simbolo non è chiaro. Poi se voglio sapere qualcosa di interessante, una bella storia di vino, posso leggere tranquillamente un racconto di chiunque, di Andrea Scanzi, di chi mi pare, insomma, e allora sento che cosa mi racconta su un produttore di vino. Però come a scuola i voti ci devono essere, non so se vi ricordate quando ai tempi delle medie, perlomeno delle medie mie, poi parlo dell'era paleocristiana forse, però insomma, quando c'erano e introdussero i giudizi, buono, distinto, ottimo, ecco, fu una confusione tremenda, insomma, non so se ricordate, ecco. Sentiamo Mauro da Firenze, un radioascoltatore. Sì, io sono Mauro da Firenze, abbiamo saputo, sono questo. Un sommelier e collezionista di vino da tantissimi anni. Bene. E continuamente degusto vino. E a me mi è capitato anni fa di degustare del vino, diciamo in un panel di vari degustatori, in cui abbiamo assaggiato questo vino che poi, andando poi alla cantina a ridegustare questo vino, era diverso, perché molte di queste aziende industriali grosse fanno delle partitelle che servono per le guide e poi il resto però è diverso, ecco. Ma Luca, sei d'accordo su questo? Pensi che possa succedere? Pronto? No, secondo me non succede. Succede, secondo me non sono d'accordo. Quindi tu dici che queste cose... Pronto? Sì, pronto, ti ascoltiamo. Si sente malissimo. Sì, queste cose non le condivido, non penso che succedano, quindi penso proprio di no. Senti, voi state già lavorando per questa seconda edizione, mi sembra di capire, appunto della tua enciclopedia del vino, quindi state facendo, cioè è un discorso molto, molto importante, perché non prendete in considerazione solamente l'Italia, visto che avete premiato un vino portoghese, cioè vi allargate al mondo, quindi quante degustazioni riuscite a fare? Beh, ne facciamo tante, abbiamo voluto dare questo tocco perché secondo noi mancava quello che mancava, come dicevo prima, l'Italia e l'internazionalità. Questo secondo me è anche un punto di forza per il vino italiano, andare a essere collocato, a essere comunicato insieme a altre grandi realtà estere. No, niente, facciamo andare tutti i campioni dalla selezione che facciamo, una selezione scritta di papabili candidati alla top 100, quindi sono circa 400 vini, e ci mandano i campioni, facciamo varie sessioni e poi faremo la sessione finale dove decreteremo la classifica dei 100, che uscirà anche quest'altro anno a marzo. Ho capito. Bene, ti sentiamo molto lontano perché c'è un ritardo, ovviamente sei in un paese extraeuropeo, si capisce benissimo. Grazie comunque Luca, e a presto e buona fortuna con la seconda edizione della tua, diciamolo così, è una guida molto particolare, però anche quella una guida. Bene, siamo arrivati quasi in fondo a questa trasmissione, continuano ad arrivare SMS, ma devo dire che continuano a non leggerli, perché secondo me un radioascoltatore prima ha girato attorno al discorso appunto particolare di come vengono sottoposti certi punteggi, come vengono dati certi punteggi, ma sicuramente poi qui ci sono tutti bla bla bla, e poi quando uno deve dimostrare, e non siamo un tribunale, d'accordo, però siamo in una emittente, per cui questa emittente viene ascoltata da tantissime persone e non si possono lanciare così delle accuse a vuoto. Abbiamo ritrovato Cristiana Lauro, un'ultima domanda al volo, Cristiana, secondo te ci può essere un futuro diverso dai punteggi? No, sinceramente non riesco proprio a immaginarlo, non saprei come, cioè non è indicativa, non è orientativa secondo me una guida che non assegni dei punteggi, per cui obtorto collo dovremmo secondo me farci pace con questa cosa. Oh, una roba volevo dire, che chiaramente il punteggio poi è orientativo per un certo tipo di pubblico, ma è una questione anche di punti di vista, cioè probabilmente io e lei Paolini non abbiamo, non controlliamo il punteggio di una guida per affidarci nell'acquisto di una bottiglia eccetera, però per tante persone magari è utile ed è molto chiaro, ripeto, rigoroso deve essere il sistema di punteggio. No, non lo utilizziamo soprattutto perché se incrociamo tutte le guide vediamo che non sono d'accordo sui primi 20, 25, 30, esatto, 30 vini, quindi infatti, sicuramente ci sono giudizi di valore completamente diversi l'uno dall'altro, perché sicuramente il gusto è molto ma molto soggettivo e così pure l'olfatto. Bene, grazie a Cristiana Lauro, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11:20 e ogni giorno con la pillola del gastronauta, quindi ora vi saluto, vi auguro un buon weekend magari con un buon bicchiere di vino, a presto.